Nuova, dice il presidente di Confindustria Squinzi all'assemblea dell'associazione. Renzi ha avuto un forte mandato popolare, ora i fatti. Il governo sarebbe pronto intanto ad accelerare sulla riforma della pubblica amministrazione. Ieri in A1 il sequestro delle barriere di sicurezza su alcuni viadotti con obbligo di riduzione di velocità, però potrebbero essere a rischio decine di chilometri di autostrada, le partenze estive si avvicinano. Nel frattempo c'è oggi lo sciopero del trasporto ferroviario, molti treni locali soppressi, circolazione quasi regolare sulle tratte nazionali. Domani, alla vigilia del lungo weekend del 2 giugno, si ferma il trasporto pubblico locale. Ancora una violenza sessuale in India su due ragazzine, tre uomini, tra cui due poliziotti, avrebbero violentato due sorelle di 14 e 15 anni per poi ucciderle. Al Giro d'Italia oggi la prima di tre tappe di montagna, ma i riflettori sono sulle polemiche, il gesto dell'ombrello all'arrivo fatto da Pirazzi, vincitore ieri, e gli attacchi a Quintana. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I nostri contatti, come sempre, effettogiorno@radio24.it, la nostra pagina Facebook, l'account Twitter è il mio, Simone Spezia. Prima di andare all'assemblea di Confindustria, una notizia appena battuta dalle agenzie e che è importante, arriva dall'Ucraina. 14 persone sarebbero rimaste uccise nell'abbattimento di un elicottero militare ucraino vicino a Sloviansk, è quello che scrive la BBC citando il presidente uscente Oleksandr Turchinov. Vedremo se naturalmente ci sono aggiornamenti. Nel frattempo in Ucraina rimangono sostanzialmente sotto sequestro dei nazionalisti filorussi, quattro osservatori dell'OSCE. Stiamo cercando di metterci in contatto con la capo missione dell'OSCE in Ucraina, che è un'italiana, Etana De Zulueta. Vedremo se ci riusciremo nel corso di Effetto Giorno. Però andiamo appunto in apertura alle questioni economiche e di politica economica, perché questa mattina c'è l'assemblea di Confindustria. Ci colleghiamo con Vincenzo Miglietta da Roma, che ci racconta come sono andate le cose. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno, è un messaggio ben preciso quello che arriva dall'Assemblea Generale di Confindustria. Avere coraggio, superare le vecchie logiche che hanno bloccato il paese, a maggior ragione ora fa capire il leader degli industriali Giorgio Squinzi, dopo quelle urne hanno dato un mandato così netto al governo Renzi. Sentiamo allora Squinzi. È arrivato il momento di costruire un'Italia nuova. È compito nostro superare le vecchie logiche, non avere paura del nuovo. Da questa crisi, che sembra non finire mai, possiamo uscire solo decidendo ciò che da almeno due decenni non abbiamo avuto il coraggio di fare: cambiare facendo. Squinzi parla dunque della necessità di costruire un'Italia nuova, percorso che richiede però, secondo il presidente di Confindustria, che si torni alla crescita, una strada obbligata questa per combattere l'emergenza disoccupazione. Ascoltiamo ancora Squinzi. Temo però che anche quest'anno la crescita che vorremmo vedere non ci sarà e insieme alla crescita non ci sarà il lavoro. Questa è per me la sofferenza più grande come imprenditore e come cittadino. Il leader degli industriali punta quindi il dito su rigidità sindacali e burocrazia, auspica che i salari siano legati ai risultati aziendali con il contratto a tempo indeterminato che deve essere più conveniente. Quindi i recenti fatti legati all'Expo, chi corrompe fa male alla comunità e al mercato, dice Squinzi. L'intervento del ministro dello sviluppo economico Guidi, poi la forza del nostro paese, ricorda il ministro, sta soprattutto nelle fabbriche che esportano, che investono, che innovano, che assumono. Sentiamo il ministro Guidi. C'è fame di Italia nel mondo e ce ne sarà sempre di più. Intercettare questa nuova domanda significa dare un'ulteriore spinta alle nostre esportazioni, vale a dire alla componente che più di ogni altra può dare vita a una crescita sostenibile e duratura, non drogata da più o meno generosi incentivi pubblici, da interventi distorsivi dello Stato o da bolle speculative. Noi dobbiamo parlare di crescita reale e duratura. E dobbiamo dire basta alla dilagante cultura anti-imprenditoriale, conclude il ministro Guidi, basta alla criminalizzazione del profitto. E da Roma è tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo Miglietta, naturalmente vi continueremo ad aggiornare se arriveranno altre notizie dall'assemblea di Confindustria e naturalmente ampio spazio oggi ci sarà all'interno di Focus Economia. Una notizia che arriva dalla Camera, dove l'Aula ha dato il via libera alla proposta di legge sul divorzio breve, che riduce i tempi dello scioglimento del matrimonio a 12 mesi in caso di contenzioso e a 6 mesi per i divorzi consensuali. Ma non è chiaramente questa, come dire, una delle priorità sulle quali si sta concentrando il governo adesso. Le priorità sono in realtà quelle proprio indicate da Confindustria, quelle economiche. Già si parla di un'accelerazione sul cronoprogramma imposto da Renzi. È su questo che facciamo il punto con la nostra Elisabetta Fiorito. Sì Simone, buongiorno. Allora, subito dopo il risultato delle europee, il Premier spinge l'acceleratore sulle riforme e quindi intanto è in arrivo un decreto per dare più poteri a Raffaele Cantone sull'Expo, permettendogli quindi di vigilare sulla trasparenza e sugli appalti. Il Premier concede un'intervista a Repubblica e dice appunto che le altre priorità sono anche entro giugno chiudere la riforma della pubblica amministrazione, ricordiamo la riforma della PA, poi sappiamo benissimo che l'altro scoglio è chiudere la riforma del Senato e del titolo quinto della Costituzione, e quindi ci sono qui delle aperture da parte di Renzi su modifiche sulla riforma proprio del Senato e anche sull'Italicum, come ricordiamo la riforma della legge elettorale. Prima dell'estate, dice Renzi, ma non è uno slogan per approvare davvero quelle leggi. Avrebbe detto ai suoi il Premier, sono pronto ad accettare modifiche, ne discutiamo ma poi si vota, anche perché sono sicuro che Berlusconi non si tirerà indietro. Queste sono le parole che avrebbe detto appunto il Presidente del Consiglio. Ricordiamo poi l'appuntamento tra un'ora per quanto riguarda il Partito Democratico, la direzione nazionale, che esaminerà proprio i risultati, anzi clamorosi risultati per il PD, delle europee. A te Simone. E grazie alla nostra Elisabetta Fiorito. Veniamo agli altri, per così dire, gli sconfitti dall'esito elettorale. E oggi ci sarà un incontro tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, partiamo dal Movimento 5 Stelle. Dopo la spedizione di Grillo in Europa è alta la tensione nel Movimento, già approvato per la sconfitta elettorale di domenica. Sono in molti a mal digerire un accordo con gli ultranazionalisti inglesi di Farage per le loro posizioni xenofobe e contro l'immigrazione. Critiche sono arrivate da esponenti di primo piano come Giulia Sarti, per esempio, che senza mezzi termini ha detto Farage mi fa schifo. Una scelta fortemente voluta da Grillo e Casaleggio, naturalmente per poter contare di più in Europa, ma che dovrà essere sottoposta al vaglio della rete, con il rischio anche di venire sconfessata, e in quel caso il Movimento si troverebbe solo e fuori dai giochi. Tra l'altro ricordiamo che a sedere insieme allo UKIP era stato finora la Lega Nord, che adesso invece è passata all'alleanza con Marine Le Pen. Il segretario Salvini proprio ieri, nel giorno delle grandi manovre degli euroscettici, aveva viaggiato insieme a Grillo da Malpensa a Bruxelles, e questa mattina racconta questo suo incontro alla trasmissione Mixer 24 di Giovanni Minoli. Sentiamo. Beppe Grillo l'ho conosciuto per caso ieri bevendoci un caffè parlando di pesto alla genovese, persona tranquilla, gentile, sorridente, ha portato a votare gente che si è allontanata, che vuole una politica onesta, pulita, trasparente. Io non criminalizzo né Grillo né gli elettori del Movimento 5 Stelle, certo, né contesto alcuni errori politici, quando sì. Dici sono oltre Hitler, il resto fa tutto schifo. Quella propaganda, sì. Queste propaganda, però alcuni spunti sono assolutamente positivi. E intanto fibrillazioni anche in Forza Italia. Ieri nell'ufficio di presidenza Berlusconi ha chiarito che la questione della successione è chiusa, nel senso che non ci saranno passaggi di testimoni con i figli, che potranno esserci in futuro primarie di coalizione e non di partito, e soprattutto aperto alla Lega. Dal Carroccio dunque parte la costruzione di una coalizione di centrodestra, un inizio di dialogo che verrà suggellato da una conferenza stampa alle 17 qui a Montecitorio con Berlusconi e Salvini, in cui l'ex premier annuncerà il sostegno al referendum leghista. Ma è un dialogo che però non piace a tutti all'interno di Forza Italia, soprattutto dopo l'abbraccio di Salvini a Marine Le Pen. A te Simone. Grazie anche ad Alessandra Schepisi. All'estero, ancora una volta con una cronaca terribile dall'India. Avevano 14 e 15 anni, erano cugine e vivevano nella stessa casa. Sono state rapite ieri sera, violentate da 7 uomini e poi uccise, appese a un albero di mango e abbandonate lì. I loro corpi sono stati ritrovati dai loro genitori. È accaduto in un villaggio dell'Uttar Pradesh, India nord-orientale. Per 7 persone, fra cui 2 agenti di polizia, è scattato il mandato d'arresto. Quando ieri sera si è diffusa la notizia che le ragazzine erano scomparse, quasi tutto il villaggio è andato a far pressione perché la polizia era restia a denunciare la scomparsa. In questa storia orrenda c'è solo un dato buono: la gente sta cominciando a denunciare, anche se gli stupri non accennano a diminuire. La polizia di New Delhi ha ricevuto nei primi quattro mesi del 2014 sei denunce, in media al giorno, di stupri, con un aumento del 36% rispetto allo stesso periodo del 2013. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Andiamo in Egitto adesso, dove si sono concluse le operazioni di voto. L'ultimo atto per rendere definitivamente farsesche le elezioni presidenziali egiziane è la percentuale a favore dell'ex generale Abdel Fattah al-Sisi, 96%. Nemmeno Saddam Hussein arrivava tanto quando si inventava le sue consultazioni elettorali. La farsa precedente al mostruoso consenso per il candidato eletto era stata il giorno prima la decisione di allungare di altre 24 ore l'apertura dei seggi. Si è votato per tre giorni, un record, e nonostante questo a fatica sembra si sia arrivati al 45%. Degli egiziani. Il dato non è ancora ufficiale, probabilmente il regime modificherà la percentuale delle affluenze per renderla più consona a quell'inusitato 96% delle preferenze. Ma il punto non erano mai state le elezioni maldestramente teleguidate dall'inizio. Su questo anche gli osservatori stranieri hanno chiuso un occhio. Bisognava dare una legittimazione ad al-Sisi. Ora ce l'ha e quello che agli egiziani interessa è che governi, ristabilendo l'ordine, sistemando in qualche modo l'economia, facendo tornare milioni di turisti scomparsi dall'Egitto. La democrazia, come aveva detto al-Sisi durante la campagna elettorale, si farà fra 25 anni. Ugo Tramballi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Parliamo di trasporti adesso, perché la polizia stradale ieri ha eseguito il sequestro di barriere di sicurezza, le cosiddette jersey, sui viadotti della 1 Firenze-Bologna tra Barberino di Mugello e Ronco Bilaccio. Si sta ragionando adesso su quanto possa essere esteso il fenomeno, ne parleremo più avanti perché a rischio potrebbero esserci decine di chilometri di autostrada. Adesso in quelle tratte autostradali la velocità è ridotta e l'estate si avvicina. Però prima di parlare di questo, lo faremo dopo la viabilità, c'è lo sciopero dei trasporti di oggi, o meglio lo sciopero del trasporto ferroviario e domani del trasporto pubblico locale. Sono già iniziati stamattina i disagi per i viaggiatori causati da una due giorni di sciopero nazionale di alcuni sindacati e si sono già verificati ritardi, variazioni di percorso, cancellazioni anche nelle fasce protette. Trenord ha cancellato in Lombardia alcuni treni, tra cui l'ultimo in fascia protetta tra Lecco e Milano. Si tratta del treno 10.833 in partenza da Lecco alle 8.07, secondo la società non rientra tra i garantiti, sebbene il suo orario di partenza sia all'interno della fascia protetta mattutina. Per i pendolari Milano-Lecco lo sciopero è quindi incominciato un'ora prima. L'agitazione sindacale infatti non dovrebbe interessare le fasce orarie di maggiore affluenza di pendolari del mattino 6-9 e della sera 18-21. Ma anche nelle stazioni di Milano Centrale e Milano Porta Garibaldi risultano numerosi i treni soppressi, il cui arrivo era previsto prima delle 9, fra cui un regionale veloce proveniente da Bologna. Le frecce di Trenitalia, fa sapere FS, circoleranno regolarmente, potranno essere cancellati alcuni intercity. E domani a scioperare saranno i lavoratori del trasporto pubblico locale a livello nazionale. A Milano bus, tram e metro saranno a rischio dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. L'area C sarà sospesa. Scioperi anche sul fronte aereo a rischio Meridiana e EasyJet. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso ci occupiamo invece del Giro d'Italia. Un Giro d'Italia che, come già vi dicevamo nei titoli, sembra caratterizzarsi al momento soprattutto per le polemiche. Ma cosa succede al Giro d'Italia? Sono diventati tutti pazzi? Più che una corsa, sembra un'assemblea sindacale, comizi, proteste, polemiche al vetriolo. Ieri il vincitore di tappa, Stefano Pirazzi, giusto per non farci mancare niente, tagliando il traguardo ha fatto anche il gesto dell'ombrello. Poi si scusa e dice «non ne potevo più». Ma ormai la frittata è fatta, una frittata bruciata proprio nella tappa dello Stelvio, quando l'organizzazione del Giro, per evitare incidenti in discesa, ha inviato tramite radiocorsa indicazioni contraddittorie, facendo intendere che la tappa fosse neutralizzata. Da qui l'equivoco: sotto la grandine la neve quasi tutti se la sono presa comoda, mentre la maglia rosa, il colombiano Quintana, ha tirato dritto assicurandosi il primato. Un furbacchione o un grande campeon? Insomma, un gran pasticcio, un Giro rovinato. L'unica speranza è che in questi ultimi tre giorni, tutti in salita, avvenga un miracolo. Le strade del Giro sono infinite. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tra pochi giorni, il 4 giugno, si ricordano i 20 anni dalla scomparsa di Massimo Troisi. A ricordarlo, questa sera al Teatro delle Muse di Roma, amici come Enzo De Caro e Michele Mirabella, insieme alla sorella Rosaria Troisi, che al microfono di Marta Cagnola racconta la sua gioia nel vedere quanto nessuno abbia dimenticato Massimo. specialmente i giovani, perché poi sono quelli, e questo è sorprendente, perché ragazzi che non erano nemmeno nati quando Massimo se n'è andato, però evidentemente loro si identificano moltissimo in lui, nei suoi disagi, nei suoi pudori, nella sua timidezza. Io credo che Massimo abbia anche questo merito di aver fatto da spartiacque, perché oggi dopo di lui qualcosa è cambiato anche nel modo di fare teatro, nel modo, almeno io lo vedo anche qui dalle nostre parti, si fa teatro in un altro modo, si fa cinema in un altro modo, tutto si avvia in un modo più spontaneo, più semplice. E evidentemente anche il pubblico se ne è accorto di questa sua leggerezza, direi. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. È il momento di costruire un'Italia nuova, dice il presidente di Confindustria Squinzi all'assemblea dell'associazione. Renzi ha avuto un forte mandato popolare. Ora i fatti. Il governo sarebbe pronto ad accelerare sulla riforma della pubblica amministrazione e i maggiori poteri a Cantone sull'Expo. È appena arrivato il sì dell'Aula della Camera alla proposta di legge sul divorzio breve, solo 30 i contrari, ridotti i tempi dello scioglimento del matrimonio a 12 mesi in caso di contenzioso e a 6 mesi per le consensuali. Il testo ora passa al Senato. Oggi sciopero del trasporto ferroviario, molti treni locali soppressi, circolazione quasi regolare sulle tratte nazionali. Domani, alla vigilia del lungo weekend del 2 giugno, si ferma il trasporto pubblico locale. Ancora una violenza sessuale in India su due ragazzini, tre uomini, tra cui due poliziotti, avrebbero violentato due sorelle di 14 e 15 anni per poi ucciderle. Maurizio Caprino del Sole 24 Ore, ciao, buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti. L'uomo che ci accompagna sempre su questioni di strade, di patenti e non solo. Allora, Maurizio, sull'autosole che cosa è successo? È successo che questi jersey, che sono quelle barriere di cemento che tutti conosciamo bene, sono risultate sostanzialmente non idonee, vecchie, no? E quindi sono state sequestrate. Diciamo degradate, nel senso che erano barriere che erano idonee al momento in cui sono state montate, quindi parliamo di circa 30 anni fa, e poi adesso sarebbero anche un po' superate dai nuovi prodotti, però non è tanto questo il problema è che in questi anni sono degradate, quindi sono stati trovati degli attacchi che sono staccati, in buona sostanza, delle barriere in sé che si sono degradate, quindi dei ferri, quelli sono praticamente come cemento armato e alcuni ferri sono a vista, quindi scene di degrado, insomma. Allora, succede questo, che appunto sono stati sequestrati e che in quei tratti autostradali va via la corsia d'emergenza, di fatto non si può utilizzare. Esatto, va via la corsia d'emergenza, tra l'altro in alcuni spezzoni la corsia d'emergenza già non c'è per costruzione della strada, adesso viene completamente neutralizzata, vengono abbassati di conseguenza i limiti di velocità, anche se sappiamo che poi alla a fine, quanto? Ma diciamo dovrebbe essere, io ancora non ho visto, però normalmente sono 60 all'ora, è come se si andasse in cantiere. Okay. Allora, quello che ci interessa a questo punto, visto che manca relativamente poco alle partenze estive, è che rischi ci sono che questo si estenda ad altri tratti e ad altre tratte autostradali italiane. Allora, per capirlo dobbiamo dire che la cosa nasce da una segnalazione della Procura di Avellino, che sta indagando da quasi un anno su quella strage di 40 persone che erano sul bus precipitato da un viadotto della 16 Napoli-Bari presso appunto Avellino. La Procura di Avellino ha mandato segnalazioni alle procure dove ci sono barriere dello stesso tipo e Firenze per il momento... Che sono praticamente in tutta Italia. Praticamente in tutta Italia, soprattutto diciamo nelle zone dove ci sono più viadotti, e quindi parliamo di tutti i tratti appenninici e soprattutto poi nella zona di Genova, che ha proprio una sovrabbondanza, però ripeto sono sparse un po' in tutta Italia. Il punto qual è? Che comunque il problema non è quella barriera, diciamo l'indagine è nata in questa maniera perché di quella barriera si stava parlando. Esiste però un problema più complessivo, cioè anche barriere che sono state state montate successivamente, che sono i modelli più aggiornati, possono poggiare su terra o cemento, dipende dalle circostanze, che non sono idonei o che sono degradate a loro volta, oppure possono essere state montate male in origine. E quindi era stata fatta una campagna di controlli straordinari a seguito dell'incidente di Monteforte Irpino, una campagna compiuta in agosto-settembre 2013. Non si riesce a capire però quali siano stati gli esiti. E quindi non abbiamo chiarezza, insomma, di quello che può succedere nei prossimi mesi, anche perché non sappiamo, in 10 secondi, Maurizio, come si muoveranno queste procure che hanno ricevuto le segnalazioni. È verosimile che Firenze abbia fatto il sequestro perché non ha trovato evidenza di quella campagna di risanamento che vi ho detto prima. Magari in altre procure altre procure hanno trovato un'evidenza, quindi non hanno fatto il sequestro, però magari le carenze ci sono lo stesso e quindi si procederà in altro modo, o si deciderà di non procedere affatto. Vedremo. Allora, vedremo e terremo sott'occhio la vicenda. Intanto ve l'abbiamo voluta segnalare anche in maniera approfondita, proprio perché ci sembra discretamente importante, per così dire. E così come è importante la ricorrenza di oggi, 2 anni dal terremoto in Emilia. Ci dedichiamo un Radio Day. Radio 24 Day. Non c'è spazio. La cosa incomincia a diventare un po' più pesante. A voce bassa, per non svegliare la piccola Lucia, la nonna sistema il fiocco rosa sulla porta numero 25. Il suo MAP, ossia modulo abitativo provvisorio, è proprio all'ingresso del campo di Cavezzo, rovente di lamiere proprio come quello più grande di Mirandola, ora che il sole picchia come 2 anni fa, quando una seconda scossa di terremoto cambiò tutto. Io abitavo qua in Piazza Ceretti e il mio palazzo devono buttare giù, proprio in centro qua a Mirandola. Ho tanto freddo, tanto caldo qui dentro. In 2500 vivono tuttora in scatolette di alluminio, riscaldati a fatica con foto e ricordi. In regione contano di svuotarli del tutto entro l'anno prossimo, ma in totale sono 5.831 le persone tuttora fuori casa, parte dei 45.000 a cui le due scosse del 20 e 29 maggio 2012 hanno stravolto l'esistenza. A differenza dell'Aquila, almeno qui una rete consolidata di servizi sociali aiuta soprattutto gli anziani a non sentirsi deportati. Ma la stanchezza inizia a pesare, come il silenzio fitto, rotto dall'eco dei televisori e dal vociare di qualche bimbo sparso. La solitudine, le temperature e i costi delle bollette dell'elettricità sono i problemi più sentiti, oltre alla mancanza di lavoro, per cui si dispera la signora Tina. Abbiamo delle bollette di luce molto esagerate, si parla da 3.000 euro, 2.000 euro, funzionando tutto a corrente, non essendoci il gas. Qua non sono mura, sono lamiere. La vostra casa? La nostra casa è distrutta, noi abbiamo perso tutto. Meno mi sarei aspettata che la ditta dove lavoravo mi avesse lasciato a casa. Io vado alla Caritas per farmi aiutare. Sul letto della figlia una montagna di peluche ricorda la grande solidarietà nazionale per gli sfollati dell'Emilia, che hanno saputo reagire subito al terremoto, ma ora c'è pure chi pensa che questo sulla lunga li stia danneggiando. Va bene, ci siamo tirati sulle maniche, adesso siamo arrivati alla canottiera, ma non abbiamo più niente da tirarci su. Qui non è vero che tutto è ricostruito, non è vero che la gente è tornata tutta in casa e non è vero che siamo tutti felici. Qui è un gran casino. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Mirandola. Così il nostro Radio Day, e un saluto ad Andrea che proprio da Mirandola ci scrive e ci ringrazia perché vogliamo ricordare. Saluto Fabrizio Bindocci, presidente del Consorzio di Tutela del Brunello di Montalcino, buongiorno. Buongiorno a voi e a Radio Ascoltatori. E la chiamiamo per una brutta storia in realtà, sì. No? Perché i carabinieri questa mattina hanno sequestrato 30.000 bottiglie di falso Brunello di Montalcino, sostanzialmente. C'erano anche altri vini, c'erano Chiari e altri DOCG. No, mi dica. Sì, vorrei fare delle precisazioni. Innanzitutto non sono 30.000 bottiglie di Brunello, 30.000 bottiglie in totale tra Brunello di Montalcino, Chianti Classico, Sagrantino, addirittura un IGT a nome Bocelli, famoso cantante. Sì. E in questo caso, per dovere di cronaca, il Brunello di Montalcino, la denominazione, il territorio e i produttori sono parte offesa, sono i danneggiati. La truffa fatta non è stata fatta da persone o aziende di Montalcino, ma da terze persone che con Montalcino non hanno a spartirci nulla. E in questo caso in realtà, Presidente, stiamo parlando di un sistema di controlli che evidentemente ha funzionato, no? Certo, certo. Allora, il Consorzio del Brunello da anni ha messo in campo un controllo con la fascetta di OCG, il sigillo di Stato che chiude la bottiglia, c'è un codice alfanumerico, i consumatori dei nostri vini, entrando nel sito del consorzio e digitando il codice alfanumerico, ricevono l'informazione, l'annata del Brunello, il nome del produttore, le caratteristiche chimiche del prodotto, e questo fa sì che garantisca il prodotto che c'è dentro la bottiglia. In questo caso era falso tutto, vino, chiusura, etichetta di fantasia, fascetta completamente taroccata con numeri inventati a caso, una truffa bella e buona fatta su un marchio conosciutissimo in Italia e all'estero, qual è il Brunello di Montalcino, perciò bottiglie appetibili, vendute supermercati, enoteche e quant'altro. Allora, la ringrazio, grazie a Fabrizio Bindocci, Presidente del Consorzio Tutela del Brunello. Noi adesso ci fermiamo per la borsa e poi dopo, nella seconda parte della trasmissione, vogliamo tornare su un tema che abbiamo toccato ieri. Ci sono arrivati molti sms sul tema delle adozioni dopo il ritorno dei 31, anzi dopo l'arrivo dei 31 bambini dal Congo. Ebbene, vogliamo approfondire proprio questo e anche il tema delle adozioni nazionali, perché tante domande ci sono arrivate su questo. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. All'assemblea di Confindustria il presidente Squinzi dice che è il momento di costruire un'Italia nuova. Renzi ha avuto un forte mandato popolare, aggiunge ora i fatti. Oggi sciopero del trasporto ferroviario, molti treni locali soppressi, circolazione quasi regolare sulle tratte nazionali. Domani si ferma il trasporto pubblico locale. Ancora una violenza sessuale in India su due ragazzine, tre uomini tra cui due poliziotti avrebbero violentato due sorelle di 14 e 15 anni per poi ucciderle. In Ucraina i ribelli filorussi avrebbero abbattuto un elicottero di Kiev, le vittime sarebbero 14. È il momento della borsa. Borse in diretta. Ed è una giornata che sarebbe caratterizzata in realtà dall'asta dei titoli di Stato a 10 e a 5 anni. Il rendimento medio è in calo per entrambi, all'1,62% per i quinquennali e al 3,01% per i decennali. Dico sarebbe perché in realtà la borsa, Eleonora Micheli di Radio Coro, Il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Non ha reagito un granché bene, comunque meno 0,3% il FTSE MIB e meno 0,26% il FTSE All Share. Anzi, dopo l'asta dei BTP che si sono portati, il cui rendimento si è portato su nuovi minimi storici, il FTSE MIB andava anche peggio, segnava un calo attorno al 0,5%. Oggi evidentemente una pausa di riflessione per Milano, che peraltro registra la performance peggiore d'Europa, insieme a Madrid che perde lo 0,26%. Come mai? Perché in questo caso pesa l'andamento delle banche, nonostante tra l'altro questa mattina un po' a sorpresa la Popolare di Vicenza abbia lanciato un'OPA sulla Popolare dell'Etruria e del Lazio, che non a caso segna un progresso del 19,5%, sì, le azioni passano di mano a 0,94 euro. La Popolare di Vicenza si è detta pronta a lanciare un'OPA, ovviamente se avrà il benestare della Popolare dell'Etruria, a 1 euro per azione. Allora, negativo oltre alle banche anche Enel meno 1,89, Azimut 1,5 e Fiat anche 1,5, positiva Iux più 1,24, Buzzi Unicem più 1,19, Luxottica più 0,87. Grazie, Eleonora Micheli, Radio Coro, Il Sole 24 Ore, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Allora, ieri abbiamo parlato di adozioni, abbiamo raccontato la storia, come molti altri hanno fatto, dei 31 bambini arrivati dal Congo che hanno ritrovato le loro famiglie adottive. Molti di voi ci hanno scritto, che naturalmente, perché non è che si può sapere tutto, no? Che non sono a conoscenza di quello che succede in Italia e ci hanno detto: ma perché la gente va all'estero per adottare i bambini e non viene in Italia? Vi voglio leggere prima di tutto brevemente un'email che ci è arrivata da un'ascoltatrice che si chiama Cristina, effetto giorno a radio24.it. Ha detto: alcuni anni fa ho fatto domanda di adozione nazionale, la nostra scelta era stata in qualche misura sostenuta dai servizi sociali, avevamo avuto i complimenti del Tribunale dei Minori per la serenità della coppia, abbiamo aspettato 7 anni facendo anche una seconda richiesta, non abbiamo mai avuto il nostro bambino. Ecco perché le famiglie si rivolgono all'estero. Non c'è solamente questo, sentiamo la nostra Valentina Furlanetto che ci riassume quali sono i problemi. Perché non un bimbo italiano? Perché, contrariamente a quanto si crede, in Italia sono pochi i bambini adottabili. Si calcola che siano uno ogni 200 coppie in attesa. È vero, invece, che negli istituti e nelle comunità ci sono molti bambini e ragazzi che non sono adottabili, ma vorrebbero una famiglia. Vivono lì perché i genitori non sono in grado di prendersi cura di loro. Questi bambini cercano una famiglia affidataria, non adottiva. Ma mentre sono molte le coppie pronte ad adottare, non sono molte le famiglie disponibili all'affido. Ma quanti sono allora i bambini adottabili? Il fatto incredibile è che nessuno sa esattamente quanti siano, perché se è stata finalmente creata la banca dati che dovrebbe contarli e mettere in comunicazione, per così dire, domanda e offerta, in realtà il database è incompleto e quindi, per dire, se un bimbo oggi è in stato di abbandono a Taormina e a Udine ci sono dei genitori che vorrebbero adottarlo, questi dati non si incontrano. Le cause che spingono molti aspiranti genitori adottivi ad andare all'estero, quindi, sono molteplici e, anche risolta la vicenda dei bambini del Congo, restano sul terreno molti problemi. Uno riguarda i tempi delle procedure, da 2 a 4 anni di attesa. Un altro, i costi. Si può arrivare a spendere, infatti, fino a 30.000 euro ad adozione. Spese che sono sì deducibili al 50%, ma provate voi ad andare in Nepal e chiedere a un tassista che vi accompagna in orfanotrofio di rilasciarvi la ricevuta fiscale. Ma c'è un ulteriore problema. Quando si maneggiano così tanti soldi in un paese dove soldi non ce ne sono, bisogna stare attenti a non spingere quei paesi a cercare i bambini. Ed è quello che qualche volta accade. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo è il quadro per quanto riguarda le adozioni. Vogliamo invece parlare di tutt'altro argomento, ossia di Totò Cuffaro, ex presidente della Regione Sicilia. È successo che nelle more della discussione sulla finanziaria regionale siciliana, il vitalizio da 6.000 euro riconosciuto all'ex presidente della Regione, che attualmente è detenuto con una condanna per favoreggiamento a Cosa Nostra, è risultato salvo perché c'era un subemendamento presentato dal Movimento 5 Stelle che mirava ad escludere dal vitalizio coloro i quali fossero stati condannati in via definitiva per i delitti previsti dagli articoli 416, 416 bis e 416 ter. Fabrizio Ferrandelli è del Partito Democratico ed è deputato regionale, perché così si dice, della Sicilia. Buongiorno. Buongiorno. Come è stata possibile? Infatti mi sembra una cosa ancora impossibile, oggi non stentiamo a crederci, anche perché noi non vogliamo fare il caso Cuffaro, noi riteniamo che le leggi non vadano fatte né ad persona né contra persona. Ferrandelli, ma voi non siete in maggioranza? Siamo in maggioranza, io sono in maggioranza e ho ritenuto, fra l'altro, fondato l'emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle e non ne ho presentato uno di maggioranza proprio perché ho voluto firmare il loro per dare la dimostrazione che su determinate tematiche non poteva esserci una divisione. Invece il risultato di oggi è sconcertante. Vediamo appunto che all'interno della discussione di ieri hanno votato in maggioranza tutti quanti contro il nostro emendamento. Noi riteniamo una cosa semplice, che chi si è macchiato di reati di mafia, di reati contro l'amministrazione, non possa percepire un vitalizio. Anzi, per dirla tutti, noi riteniamo che il vitalizio sia un privilegio feudale e infatti da questa legislatura, già in Assemblea Regionale Siciliana, io per primo che sono eletto non godremo appunto di questo privilegio feudale perché l'abbiamo abolito. Ferrandelli, sì, però mi scusi, lei ci ha detto chiaramente per cosa ha votato, però visti i numeri, 18 deputati a favore, 33 contrari e 7 astenuti, per forza molti del suo partito hanno votato contro questo emendamento, o no? Assolutamente, ed è il motivo per il quale abbiamo chiesto la conta e per cui abbiamo chiesto il voto palese, perché è corretto che tutti i cittadini sappiano quali sono i nomi e cognomi dei politici che non hanno votato contro quello che è un gesto di civiltà. Perché i suoi colleghi del suo stesso partito lo hanno fatto? Io questo non ho capito, Ferrandelli. Guardi, questa è una domanda che lei dovrebbe fare a loro. A me può chiedere perché io l'ho votato, e questo posso dirlo con molta chiarezza, perché io voglio continuare a... Vuole continuare, ma purtroppo evidentemente non può continuare perché l'audio va e viene. Vediamo se l'abbiamo recuperato. Ferrandelli, ci sente? Sì. Ah, ecco, perfetto. Perfetto. Mi diceva? Sì, in realtà la questione, io le posso dire i motivi per i quali io l'ho votato, perché credo che sia un gesto di grande civiltà e sia un gesto etico e morale. Invece altri parlamentari regionali, fra cui gli altri parlamentari del mio partito, hanno affrontato la questione come se si trattasse di una cosa di azzeccagarbugli, come se non fosse possibile agire su un diritto che già si è maturato. Io credo che invece i segnali vadano dati, che c'è un tema etico e morale, è una questione morale più profonda e più ampia di una questione tecnico-giuridica. Fra l'altro noi riteniamo che il vitalizio non si tratta di un diritto soggettivo come la pensione, ma si tratta appunto di un onere accessorio che viene erogato all'Assemblea siciliana. Riteniamo appunto ancora una volta, diciamo, che sia stato sconfitto il buonsenso e l'etica in Sicilia. Ha chiesto una verifica interna al suo partito, come dire, proprio su questo tema qua? L'abbiamo chiesta, e fra l'altro affronterò anche la questione in Commissione regionale antimafia, di cui sono vicepresidente, perché voglio anche capire come mai gli altri commissari della Commissione antimafia non abbiano votato a sostegno di questo emendamento, che credo avrebbe dovuto qualificare l'impegno di chi con me siede fra i banchi di quella posizione. E devo dire che il PD siciliano deve affrontare una grande questione morale. Io lo dico con molta chiarezza: non c'è soltanto una questione legislativa all'interno del nostro partito, ma c'è anche la questione morale. Del resto noi siamo il partito che ha avuto anche Franco Antonio Genovese, e siciliano, fra l'altro noto ormai alla cronaca nazionale, ed è un partito siciliano che ha avuto proprio Genovese come primo segretario regionale. Cioè, c'è partito. Una questione morale all'interno all'interno del PD siciliano, c'è una questione morale da affrontare. Sì, all'interno di tutti i partiti e anche del mio partito. Grazie a Fabrizio Ferrandelli, consigliere regionale, o meglio deputato regionale del PD in Sicilia. Traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed è il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. By most measures, America has rarely been stronger relative to the rest of the world. Barack Obama, il presidente americano, ieri, lo avete sentito, ha parlato all'Accademia Militare di West Point, la più antica, la più grande accademia americana degli Stati Uniti, la più importante sicuramente, e ha pronunciato un discorso di politica estera che era molto atteso. In questo passaggio che vi ho fatto ascoltare, il presidente dice: sotto molti punti di vista l'America non è mai stata così forte come ora rispetto al resto del mondo. Coloro che sostengono che l'America sia in declino o che la sua leadership si stia sgretolando interpretano male la storia, oppure hanno semplicemente degli interessi politici. La forza militare americana resta senza pari nel mondo. Le minacce con cui gli Stati Uniti si confrontano oggi sono minime rispetto ai tempi della Guerra Fredda. Ecco, un Barack Obama orgoglioso, un Barack Obama che rivendica il ruolo degli Stati Uniti, un Barack Obama che risponde alle critiche in arrivo da ogni parte del mondo alla sua presidenza. Una presidenza giudicata debole, giudicata in difensiva, in retrovia rispetto ad esempio alla presidenza di Vladimir Putin, una presidenza aggressiva. E quella differenza di cui abbiamo parlato tempo fa, la differenza tra il win-win, tra quell'approccio win-win, l'approccio di Obama in cui facciamo le cose insieme così vinciamo tutti e due, e invece l'approccio zero-sum game di Vladimir Putin: uno soltanto vince, o vinco io e perdi tu,